sfiorato il vuoto, la mia vita odiosa gettata in profonde gole oscure, nel mio vano tentativo di sentirmi un'altra cosa. Spirito.